One, two, three, four, five, and six. Couple racks on the rocks, on the block, coming new kids. Knock, look, looks, man, mocha, teclan. Altro che putan, got me back, come West Bam. Walla, bam, boom, shalak, lak, everlast, rules. No, uns, b-boy, solo uncha. Patum, patum, ciao, aglio, metto capo. Basta poco, che c'è voi? Basta poco, che c'è voi?